puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento, i numeri per chiamarci in diretta e partecipare alle nostre discussioni, dire la vostra sui fatti del giorno, il numero verde 800 24 0024, gli sms al 349 238 6666 e infine la mail lazanzara@radio24.it. Andiamo subito a sentire gli ultimi telegiornali partendo dal TG2. In un decreto forse il pacchetto anticrisi per l'auto, misure urgenti entro 10 giorni, allo studio aiuti per consumatori e imprese, nuovo incontro, governo, parti sociali. Traffico in tilt per l'emergenza frane in Calabria, chiusa in due tratti per 60 km la Salerno-Reggio Calabria, tir incolonnati, camionisti esasperati. Dalle Filippine le prime immagini di Eugenio Vagni, rapito il 15 gennaio con altri due funzionari della Croce Rossa in buone condizioni. Si tratta per il suo rilascio. L'ideatore è arrestato, decine di vigili indagati, 80 comuni coinvolti, svolta nell'inchiesta sui cosiddetti semafori intelligenti, ora vietati, vere e proprie macchine mangiasoldi. In tantissimi per l'addio a Mino Reitano, molti anche i volti noti, ricordo di Celentano, da tutto il mondo via internet e migliaia di messaggi e testimonianze d'affetto. Bene, diciamo subito che comincia a parlare, non si sa per quale motivo, bisognerà accertarlo, certamente c'è una tattica giudiziaria e stiamo parlando naturalmente di Cesare Battisti, perché proseguiamo questa campagna su Aridateci Battisti, Piazza Navona 14 00 186 Roma, l'indirizzo dell'ambasciata brasiliana oppure il sito internet, l'indirizzo internet info@ambrasile.it per le vostre proteste nei confronti della decisione del Brasile. E dicevo, Battisti comincia a parlare, bisogna interpretarlo e interpretare soprattutto e capire perché lo fa. Non ho ucciso, ribadisce, sono pronto a incontrare i figli delle vittime. E poi però spara sulla Francia, l'idea della mia fuga in Brasile è stata di un membro dei servizi segreti francesi. Dice tante altre cose, ma ve ne parleremo dopo, i titoli di Studio Aperto. Luce rossa e semafori truffa, arrestato a Verona il progettista dei T-RED, le macchinette che fotografano le infrazioni, è accusato di frode e sequestri in 24 province, 109 indagati, tra loro 63 capi della polizia municipale, e l'inchiesta è soltanto all'inizio, parla il comandante che scoprì per primo le irregolarità. Intervista shock di Battisti, è giusto che stia in Brasile, non ha ucciso nessuno, dice l'ex terrorista, condannato per 4 omicidi. Poi offende le vittime e gli inquirenti, accuse meschine, commentano gli interessati. Il ministro Frattini fiducioso, vedrete, la Corte Suprema concederà l'estradizione. Volevo dare un futuro a mio figlio, per questo ho deciso di prostituirmi. Incinta, 29 anni, un bimbo di 3, parla Jenny, ridotta in schiavitù dall'ex compagno, arrestato dalla Bene, polizia. Bene, 18:39, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. In questa intervista concessa al settimanale brasiliano Isto È, Battisti dice: io rimango un comunista, non nel senso partitico, le mie idee non sono cambiate. La lotta armata è stato un errore, io non ho mai sparato a nessuno, sebbene abbia usato armi in operazioni per il finanziamento delle organizzazioni. In Italia è esistita la guerra civile, come abbiamo denunciato all'orchestratore della repressione all'epoca, l'ex presidente Cossiga. Lui ha mandato a me una lettera personale riconoscendomi come militante politico. Parole di Cossiga: sarà che Berlusconi, il grande mafioso, in questo modo si esprime Battisti, ha più credibilità di Cossiga? Questo Battisti in un'intervista a un settimanale francese. E a questo punto ritorna, io non capisco perché, ritorna d'attualità la questione dell'amichevole Italia-Brasile del 10 di febbraio. Le cose sono già avviate, c'è un grande business intorno a questa partita che si svolgerà a Londra, sicuramente non si può cambiare il calendario, soprattutto non si può rimandare, questo lo sanno tutti per diversi motivi, forse non è nemmeno giusto farlo, e però ci sono persone che evidentemente per convinzione, ma anche per mettersi in mostra, per apparire, continuano a dire che non si dovrebbe giocare. Uno di questi è il ministro della difesa La Russa, dopo il sottosegretario agli esteri Mantica, sempre Alleanza Nazionale. La Russa dice: avevo già il biglietto, però non ci vado e non si dovrebbe giocare. Qui si tratta di una gara amichevole e io non vedo cosa ci possa essere di molto amichevole in questo momento tra noi e il Brasile. Quindi io, che avevo deciso di andarla a vedere, vi posso far vedere il biglietto già pronto, rinuncio ad andare e spero che la partita non si svolga. Spero che la partita non si svolga. A questo punto, quando uno dice spero che la partita non si svolga, il ministro della difesa, mentre in contemporanea il ministro degli esteri dice che sicuramente si svolgerà e farà il tifo per l'Italia, c'è qualcosa che non torna. Evidentemente, come al solito, si sta facendo un po' di propaganda. Ancora la russa. Perché trattandosi non di una partita ufficiale, fosse stata una Coppa del Mondo, una... Allora era corretto dire no, la politica non deve entrare, le gare sportive non vanno mischiate. Qui si tratta di un incontro amichevole, quindi di una scelta di amicizia. In questo momento non vedo molte ragioni di amicizia col Brasile, quindi io la abolirei e lo rilancio con forza. Lo rilancio con forza, lo abolirei, bisogna vedere poi i passi ufficiali al di là delle parole, per carità, le opinioni della russa sono rispettabilissime come quelle di tutti. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Mentre l'ex presidente Scalfaro sostiene che Di Pietro l'altro giorno con le sue parole nei confronti di Napolitano ha addirittura commesso un reato, stiamo parlando non di un berlusconiano ma del presidente, dell'ex presidente Oscar Luigi Scalfaro, e un quotidiano come Il Riformista sostiene che quello di Piazza Farnese l'altro giorno è un movimento contro lo Stato di diritto. Un movimento contro lo Stato di diritto, Di Pietro si difende in questo modo oggi dalle accuse che gli piovono da tutte le parti. Rivendico ciò che ho detto e che l'Italia dei Valori, insieme all'Associazione Vittime per la Mafia, ha fatto ieri a Piazza Farnese. In una democrazia, non in Cile, si usa anche dissentire dalle decisioni del potere quando queste non sono condivise o condivisibili. E noi ieri non abbiamo offeso il capo dello Stato. L'associazione vittime della mafia e noi dell'Italia dei Valori ieri abbiamo detto che non si può rimanere in silenzio rispetto a ciò che sta accadendo, perché il silenzio è mafioso, il silenzio uccide. Forse avrebbe fatto meglio a stare qualcuno a stare lì, forse avrebbe fatto meglio ad ascoltare quella piazza dove non c'erano eversori, non c'erano terroristi, c'erano i parenti e le vittime della mafia che chiedevano aiuto. Cosa c'entra il fatto che c'erano i parenti della mafia? Non riesco a capirlo. Comunque, insomma, questo è Di Pietro che si difende ed è anche questo nel suo diritto farlo. Beh, sono tornati i nanetti politici, perché, come sapete, è in procinto di essere varata una legge elettorale per le europee con lo sbarramento al 4%, mantenendo le preferenze e mantenendo le attuali circoscrizioni. Un accordo tra il Partito Democratico, il PDL e sembra anche l'Italia dei Valori, che dunque ogni tanto si accorda con l'odiato Berlusconi. E questo nonostante il fatto che pochi mesi fa il leader dell'opposizione Veltroni sosteneva queste cose. Il PD è fortemente contrario alla linea della maggioranza di introdurre quelle soglie di sbarramento che finirebbero per impedire la rappresentanza di forze politiche che hanno una presenza significativa nella società. Più volte Veltroni nei mesi scorsi ha ribadito che lo sbarramento è sbagliato, eccetera eccetera. Evidentemente ci ha ripensato, perché uno sbarramento conviene ai grandi partiti e secondo me è una cosa giusta e corretta, ma questa è una mia opinione naturalmente. Ma dicevo, sono in rivolta i piccolissimi partiti che speravano una grande ribalta per le europee, Mastella e Francescato dei Verdi. Ma siete dei nanetti! Eccolo qua, Mastella e Francescato, che naturalmente parlano di attentato alla democrazia. Già molti si erano incamminati e già in tanti stanno facendo le liste, e questo è un atto, come dire, risolutamente che non credo sia il massimo della democrazia. È soprattutto una battaglia per difendere la democrazia, perché noi possiamo accettare che siano gli elettori a mandarci a casa, non certo i signori Veltroni e Berlusconi per un vergognoso inciucio. Il vergognoso inciucio, ma in realtà... In realtà anche alle politiche c'è lo sbarramento e sono stati gli elettori a mandarli via. Vabbè, considerazione a latere dopo le dichiarazioni della Francescato, 800 24 00 24, si è aperto un altro caso dopo quello di Williamson. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers. Insomma, erano le parole di Williamson, come sapete, contro l'esistenza delle camere a gas. Questa volta si esprime un prete nostrano, anche se ha un cognome un po' bizzarro, è trevigiano, Don Floriano Abrahamovic, un cognome simile a quello del presidente del Chelsea, un prete sembra molto vicino alla Lega Nord, che in un'intervista alla Tribuna di Treviso sostiene cose incredibili. Per esempio, so che le camere a gas sono esistite almeno per disinfettare, ma non so dirle se abbiano fatto morti oppure no, perché non ho approfondito la questione. So che accanto a una versione ufficiale esiste un'altra versione basata sulle osservazioni dei primi tecnici alleati che sono entrati nei campi. Insomma, le camere a gas sicuramente per disinfettare, poi il resto è da vedere. Fra poco cominceremo a prendere le vostre telefonate e bisogna anche ricordare che Don Floriano Abrahamovic è molto amico, almeno così sembra, di Borghezio, l'europarlamentare molto discusso della Lega Nord, benedice spesso il crocefisso in latino, non c'è niente di male naturalmente, e la sua vicinanza con la Lega è dimostrata dal fatto che per esempio nel settembre del 2007 ha benedetto la croce della Lega in una manifestazione dove c'era anche Bossi, sentitelo. Il leone di San Marco che si è risvegliato e che vi ha svegliati a voi, quel leone per un certo tempo un po' dormiva e vediamo che di nuovo risveglia i popoli naturalmente costituiti. E io, rispondendo all'appello di Padania Cristiana, però, che non vedo solo così una fetta di questa grande realtà di popoli. E poi sentite come saluta Bossi, sempre Don Floriano. Prima di procedere alla benedizione della croce, vi faccio i miei auguri innanzitutto al segretario federale, il qual ha saputo rugire come un leone. Io lo chiamerei un po' il leone di San Marco che si è risvegliato e che vi ha svegliati a voi. Beh, insomma, sembra sia molto amico di Mario Borghezio, che saluto. Buonasera, Borghezio. Buonasera, io sono amico di tutti i sacerdoti della Fraternità San Pio X, dei sacerdoti tradizionali. I lefevriani, insomma. Lefevriani, però non esito a censurare queste dichiarazioni. Almeno nell'interpretazione che viene fatta in queste ore. Ha letto l'intervista della Tribuna di Treviso, no? Sulla Tribuna di Treviso. Non ho la Tribuna di Treviso, ma insomma ho sentito varie voci, ho letto molte agenzie di stampa, molte agenzie, e ritengo che sia stato un... No, le leggo la frase esatta, Borghezio, così chiariamo. No, ma guardi, non è necessario. Imprudente e grave, ne prendo assolutamente le distanze e voglio anche sottolineare che in tutte le occasioni in cui questo sacerdote è stato con noi si è sempre trattato di soprattutto insomma di benedizioni, di messe, eccetera, non ha mai pronunciato nulla di simile perché evidentemente... No, ma è importante che lei prenda le distanze da queste parole, per questo l'ho chiamata, no, naturalmente per sapere la sua opinione su una persona che... Mi stupisce persino che mi si chieda di prendere le distanze, cioè non, mi pare assolutamente scontato per chi conosce la Lega e per chi conosce anche le mie posizioni. Io non ho alcun dubbio al riguardo e la Lega non può essere associata minimamente a posizioni di questo genere perché non ce ne sono i presupposti di alcun genere. No, certo, io la cosa che le voglio chiedere, siccome queste parole non è che cadono dall'alto, evidentemente sono cose che già Don Floriano pensava, perché la vicinanza alla Lega di questo, cioè perché siete così vicini alle posizioni di questo? No, noi siamo alcuni leghisti, fra cui io, che si considerano cattolici tradizionalisti, anche se non apparteniamo alla fraternità, ovviamente essendo tradizionalisti sono portati a frequentare le messe, a sostenere anche le attività religiose dei sì. sacerdoti della tradizione. Se poi uno di questi straparla... Quindi voglio dire una sua responsabilità. Perfetto, perfetto. Borghezio, straparla. Ecco, voglio però dire una cosa. Mi dica. Che credo sia importante sottolineare. Mi risulta, anche l'ho sentito anche ora in televisione, che la fraternità ha preso per prima le distanze. Sì, è vero. Quindi la definirei una voce da sé fuggita e non rappresentativa dell'opinione della fraternità e dei cattolici tradizionali. Senta, il governatore del Veneto, Galan, dice che deve togliere l'abito talare. Che dice lei? Ma queste questioni di carattere liturgico io le lascio alla Chiesa e alla fraternità, perché non, né io ma neanche il Presidente Galan abbiamo veste per andare a investigare sulle questioni religiose. da un punto di vista politico, ma anche più generale, tenendo conto della pericolosità di certi temi che vengono veicolati su internet, eccetera, io dico che è molto importante che ci sia una presa di distanza molto chiara da posizioni che non, assolutamente non sono compatibili col sentimento diffuso della nostra gente. Grazie, buona serata. Immagini, buona 18 e 52 800 24 00 24. Carlo ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera, salve e congratulazioni per la trasmissione. Dica. Sarò velocissimo, io sono uno di quei pochi italiani che non segue il calcio, non lo ama particolarmente, però penso che sia un'ottima occasione per la nazionale italiana, che comunque ci rappresenta e sempre bene da quello che posso leggere sui giornali, per fare un gran bel gesto, ovvero andare in campo, non toccare nemmeno quel pallone, levarsi la maglietta, salutare e andarsene. E dopo aver fatto tutto ciò, sarebbe ottimo se i proventi, che immagino, anche se un amichevole, per le sponsorizzazioni o non so cos'altro, dovessero percepire loro la nazionale, li devolvessero in beneficenza per tutti i poveri bambini brasiliani che, ricordiamo, abitano in un paese dove reati come la prostituzione minorile sono puniti con una semplice multa, spesso e volentieri, per non parlare dei casi di corruzione di polizia. Quindi, da un paese che vuole dare una lezione a noi, una lezione del genere, tenendosi un assassino di familiari, quali sono quelli dei giocatori della nazionale, e che poi si comporta in questo modo con dei minori, è inaccettabile. Quindi d'accordo, la sua proposta è quella: si faccia la partita, però subito dopo il fischio d'inizio i giocatori dovrebbero togliersi la maglia e fare un gesto eclatante. Forse è più grave questo, sarebbe più forte questo che non fare la partita, che annullarla. La ringrazio, Carlo. Andiamo a Torino. Giovanni, buonasera. Buonasera. Dica. Complimenti per la trasmissione. La ringrazio. Volevo dirle sul discorso Battisti, mi sembra che si stia esagerando un attimino, e non si fanno i mea culpa da parte d'Italia di quando l'hanno fatto sfuggire, insomma. Lei è perfettamente d'accordo, nel senso che condivido la sua opinione, siamo stati latitanti da questo punto di vista, per usare una parola cara magari a Battisti, perché Battisti lo è. Io credo che quando era in libertà vigilata in Francia, la Francia non l'ha per niente vigilato, e infatti è successo quello che è successo. Lo stesso Battisti adesso rivendica la manina francese dei servizi segreti. Poi naturalmente bisogna verificare queste affermazioni di Battisti, però certamente la Francia, che è il paese che lo ha difeso, adesso viene attaccato da Battisti. C'è qualcosa che non torna, che bisogna capire, e anche noi evidentemente non abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere. Giovanni, lei ha ragione. Non solo nei confronti, nei confronti di Battisti, ma nei confronti di tutte quelle persone, un centinaio di persone che non si chiamano Battisti, che non hanno 4 omicidi sul groppone e che sono ancora latitanti perché hanno preso, esatto, magari la cittadinanza di qualche paese di cui non si parla. Concordo perfettamente. E di cui si conosce l'indirizzo, anche preciso. Sì, ma come di tante altre cose. E un'altra cosa, se mi permette, che volevo dire, misteriosamente non si parla delle due suore rapite. Non si sa nemmeno, ancora un po' non si conoscono nemmeno. Beh, non è un problema questo? No, ma è un problema molto serio. Naturalmente io spero che le persone che se ne devono occupare se ne occupino quotidianamente. La ringrazio, Giovanni. Luigi da Roma, velocemente, perché abbiamo il giornale radio. Sì, buonasera. Io volevo semplicemente commentare le esternazioni di Di Pietro. Non capisco veramente come possa, soprattutto una persona, insomma, che di legge dovrebbe saperne qualcosa, dire ciò che ha detto, perché a parer mio l'Italia è uno Stato altamente garantista. E Di Pietro dovrebbe sapere meglio di tutti quanti che se una legge non ha, diciamo, apertamente dei punti in contrasto con la Costituzione, il Presidente della Repubblica la firma e poi starà ad organi preposti per questo eventualmente. Ma è così, Luigi, la politica qualche volta non tiene conto dell'ovvio. Diversi messaggi ancora sulla questione Battisti, che c'è molto cara, come sapete, ma sentiamo innanzitutto i titoli del TG3. L'Italia che frana, fango e sassi sulla Salerno-Reggio Calabria, chiusi 60 chilometri, collegamenti difficili a Napoli, smottamenti a Posillipo. Lo stupro di gruppo di Guidonia, il GIP interroga i 6 arrestati, lanciato una bomba carta contro il negozio di un cittadino romeno. L'estradizione di Battisti, tensione tra Italia e Brasile, la Russia e Meloni rinviare la partita di calcio, l'ex terrorista, mi hanno aiutato i francesi. Epifani al TG3, referendum sui contratti, se passa il sì lo rispetteremo. Veltroni con il segretario CGIL, non ci sono motivi di tensione. Emma Marcegaglia a Davos, l'economia sta peggiorando, servono più soldi dei 5 miliardi stanziati. Tremonti ribadisce, le nostre banche sono solide. Grande manifestazione in Francia con oltre 1 milione di persone in piazza per lo sciopero generale. I sindacati protestano a favore di occupazione e salari. Ancora frasi shock sull'olocausto, questa volta un sacerdote lefebriano dice le camere a gas servivano a disinfettare. Semafori intelligenti, arrestato il progettista, più di 100 indagati, il giallo durava pochi istanti e scattava la multa. Bene, avete sentito dell'arresto dell'inventore del T-RED, sono 63 i capi delle polizie municipali indagati, davvero incredibile, anche se c'è ancora tutto da chiarire. Vi dicevo dei messaggi: giochiamo con la fascia nera al lutto, portiamo striscioni con scritto Battisti in galera, propone un ascoltatore. Un altro ancora: Giacomo, un immediato e organizzato prelievo forzoso di Battisti da parte dei nostri servizi segreti non sarebbe sintomo di uno Stato davvero sovrano? Non lo so, Giacomo, è una provocazione, però in altri paesi può accadere, senza problemi. Sky TG24. Camere a gas per disinfettare, è polemica. Sky TG24, il prete lefebriano di Treviso. Battisti, i servizi francesi mi aiutarono a fuggire. Frattini dice la Corte Suprema ci darà ragione. La Russa e Meloni, non si giochi Italia-Brasile, ma la maggioranza si divide. Allarme vendite nel settore auto in attesa del piano di aiuti del governo. Pericolo di incendio. Toyota Italia richiama 100.000 Yaris per un difetto alle cinture. Il Consiglio della Difesa dice sì ai militari a Gaza, ma chiede un limite all'uso nelle città. Prima legge firmata Obama, vietata la discriminazione salariale tra uomini e donne. La Francia in piazza contro il piano crisi Sarkozy, 1 milione di persone in corteo. Maltempo e pericolo frane sulle strade del sud, crolli a Tropea e Napoli, ma nessuna vittima. Semafori con il giallo troppo breve, arrestato l'inventore, oltre 100 gli indagati. Bene, 19:20, 800-24-00-24, torna d'attualità la questione di Italia-Brasile, amichevole 10 febbraio, come sapete, due ministri importanti del governo, esponenti dell'Alleanza Nazionale, il ministro Meloni e il ministro La Russa, dicono non si dovrebbe giocare. La Russa, sentito, già il biglietto in mano. Qui si tratta di una gara amichevole e io non vedo cosa ci possa essere di molto amichevole in questo momento tra noi e il Brasile. Quindi io, che avevo deciso di andarla a vedere, vi posso farvi vedere il biglietto già pronto, rinuncio ad andare e spero che la partita non si svolga. Spero che la partita non si svolga, poi torna sulla questione. Sentite ancora la Russa. Perché trattandosi non di una partita ufficiale, fosse stata una Coppa del Mondo, una... Allora era corretto dire no, la politica non deve entrare, le gare sportive non vanno mischiate. Qui si tratta di un incontro amichevole, quindi di una scelta di amicizia. In questo momento non vedo molte ragioni di amicizia col Brasile, quindi io la abolirei e lo rilancio con forza. Lo rilancio con forza. Bisogna dire che nei minuti in cui si esprimeva la Russia, il ministro degli esteri dice la partita si giocherà, io farò tifo per l'Italia, eccetera, eccetera. Cosa succede? C'è un'altra proposta che viene dal ministro Meloni, ministro della gioventù, Giorgia Meloni. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qui. Portare il lutto al braccio, lei dice. Perché? Perché lo sappiamo, insomma, per quello che è successo in queste settimane, ma le sembra un'ipotesi percorribile? Mi sembra un modo per sensibilizzare soprattutto l'opinione pubblica, in particolare l'opinione pubblica brasiliana, cioè un rischio che c'è in questa partita e che quindi avalla, a mio avviso, anche la proposta di non giocare l'amichevole, è che la partita si trasformi in un momento di tensione tra italiani e brasiliani, che è esattamente quello che non deve accadere, perché in realtà non è colpa del popolo brasiliano se c'è un ministro che ha affrontato la questione con assoluta incompetenza e assoluto cecità ideologica. Lei pensa che ci potrebbe essere, che la partita potrebbe essere un momento di tensione? Io penso che ovviamente si corre il rischio, no? Striscioni, cori, inni che vengono fischiati, insomma, questo evidentemente è prevedibile, perché mi pare che, cioè, è prevedibile, non è ovviamente auspicabile, ma insomma il rischio è un rischio reale, perché l'opinione pubblica italiana è molto sensibile su questa tematica, devo dire, stiamo riscontrando grande attenzione, no? Sì, ovviamente c'è un problema di giustizia e c'è anche un problema di sovranità, perché noi siamo stati additati e trattati dal governo brasiliano, dalla magistratura brasiliana, come se fossimo una dittatura, come se da noi non esistesse lo Stato di diritto. Quindi, insomma, c'è un problema di giustizia rispetto alle vittime di Battisti, c'è un problema di sovranità nazionale, di orgoglio e di identità nazionale che il popolo italiano sente. Quindi ovviamente il rischio è un rischio secondo me reale e sarebbe ingiusto, perché invece io sono assolutamente convinta che il popolo brasiliano edotto della vicenda, sì, qualora fosse edotto, sarebbe assolutamente d'accordo con noi. D'altra parte alcuni sondaggi in Brasile sembrano dimostrarlo. Ma è evidente, sa, a me veramente, io farei la domanda al popolo brasiliano e chiederei se considerano giusto aprire di fatto una crisi diplomatica con l'Italia per difendere un criminale comune pluriassassino che non ha il coraggio per scontare il proprio debito con la giustizia. Senta onorevole Meloni, c'è una cosa però, siccome il ruolo della Francia oggi è stato addirittura affermato e confermato dallo stesso Battisti, sono fuggito grazie ai servizi segreti francesi, qualcuno può dire, beh, insomma, con la Francia abbiamo giocato tante partite, cioè forse l'idea di boicottare la partita Italia-Brasile o attraverso addirittura un annullamento della partita o un lutto al braccio, attraverso un gesto eclatante, perché non l'abbiamo fatto prima anche con la Francia allora? Beh, vabbè, intanto guardi, evidentemente è da dimostrare la questione francese, perché insomma quello che dice Battisti non è di per sé una certezza. Poi certo, insomma, alcuni interrogativi ce li siamo posti tutti quanti, perché evidentemente il fatto che nel momento in cui la Francia ha concesso l'estradizione Battisti sia sparito e sia arrivato in Brasile è stato per noi ovviamente motivo di grande tristezza. Però insomma, detto questo, è tutto da dimostrare. Dopodiché oggi la partita aperta è aperta col Brasile. Certo. Battisti sta in Brasile, noi vogliamo che quest'uomo sconti il debito che deve pagare con la giustizia italiana per rispetto delle vittime che ha creato per fare le rapine e tentare di arricchirsi, e questo è molto distante da qualsiasi dibattito politico. Guardi, lo dico perché ancora in questi giorni, no, il tentativo di annoverare Cesare Battisti per quadro degli anni 70, no, di una stagione che andrebbe chiusa, di una pacificazione nazionale. Intanto una pacificazione è possibile allora quando le persone pagano il prezzo che devono pagare. E in secondo luogo, mi dispiace, ma non riconosco a Cesare Battisti questo status. Senta, un'ultimissima cosa che riguarda in realtà poi l'utilità di un gesto del genere. Ci dovrebbe essere una voce univoca del governo, però, perché Berlusconi su questa vicenda non si è pronunciato e secondo me dovrebbe pronunciarsi, perché insomma è il capo del governo, dovrebbe far sentire la sua voce. Secondo, il ministro degli esteri la pensa diversamente da lei e dal ministro della difesa, c'è qualcosa che non torna o no? No, guardi, non c'è affatto qualcosa che non torna. Sugli strumenti si possono avere anche idee diverse, l'importante è che si abbia tutti quanti lo stesso obiettivo. A me pare che le iniziative del ministro Frattini, che pure non è d'accordo con la proposta di non giocare la partita, aver richiamato l'ambasciatore, siano delle iniziative molto forti. Quindi mi pare che il governo sia compatto nel tentativo di utilizzare tutti gli strumenti di cui dispone per vincere questa battaglia. Però Frattini dice che la partita si giocherà. E Frattini dice che la partita si giocherà, evidentemente la partita potrà giocarsi. Io penso che sarebbe stato un segnale importante anche non giocarla, come penso che potrebbe essere un altro segnale questo del lutto di indossare il lutto per le vittime di Cesare Battisti e per i loro parenti che ancora non hanno avuto giustizia. Ci sono insomma evidentemente tante idee, tante proposte che mi sembra tutte insieme segnalino una certa attenzione da parte del governo. Grazie, buona serata. 19:27 800 24 00 24 e dunque abbiamo ascoltato un'altra cosa, il lutto al braccio, ma torna prepotentemente la questione dei piccoli partiti che sono in rivolta contro l'ipotesi di un accordo. Qualcuno lo chiama già inciucio, lo sentirete, inciucio tra PD, PDL e anche Italia dei Valori, in questo caso l'UDC ancora tentenna lo sbarramento per le elezioni europee al 4% in Anetti. Ma siete dei nanetti! E beh, ritornano però e protestano Mastella Francescato. Già molti si erano incamminati, già in tanti stanno facendo le liste, e questo è un atto, come dire, risolutamente che non credo sia il massimo della democrazia. È soprattutto una battaglia per difendere la democrazia, perché noi possiamo accettare che siano gli elettori a mandarci a casa, non certo i signori Veltroni e Berlusconi per un vergognoso inciucio. E c'è una novità importante, sembra che sia a rischio, comunque serpeggia un qualche nervosismo in ambienti Mediaset, perché il prossimo reality importante di Mediaset, che si chiama La Fattoria, si dovrebbe svolgere a questo punto in Brasile. Vi leggo alcune notizie diffuse pochi minuti fa. Mediaset, imbarazzo per Battisti, a rischio ritorno della Fattoria. Nel programma i VIP concorrenti devono gestire una azienda brasiliana. Il caso Battisti non ci voleva, la querela italo-brasiliana sulla mancata estradizione dell'ex terrorista, condannato in Italia a 4 ergastoli, sta mettendo in difficoltà i responsabili della Fattoria. Quarta edizione da reality che sta per tornare su Canale 5. All'interno della produzione si registra un certo imbarazzo. Vabbè, ci credo, insomma, dovrebbe condurre Paola Perego, il ritorno addirittura di Mara Venier a Canale 5, cose importanti. Il caso Battisti piomba su queste cose che non hanno nulla a che fare naturalmente con la politica, ma con lo show business televisivo. 19.34, andiamo subito a sentire Massimiliano da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, no, volevo intervenire sul caso di quel prete leghista che sì, diciamo, facciamo un po' sorridere la vicinanza di un prete al mondo della Lega, che ricordo che Calderoli si sposò con rito celtico, con i druidi che officiavano la messa, insomma mi sembra questa vicinanza mi sembra dovuta solo alla, diciamo, al razzismo e alla xenofobia un po' che regna un po' nella Lega. Ma insomma, secondo me non regna il razzismo e la xenofobia, e naturalmente sono punti di vista che rispetto. Guardi Massimiliano, che negli ultimi anni ci siano, la Lega abbia abbracciato alcune posizioni diciamo della Chiesa, o si sia avvicinata moltissimo alla Chiesa rispetto alla Lega degli inizi, su questo non c'è nessun dubbio. Poi sa, il prete della Lega è un prete che dice di essere vicino alla Lega Nord. Insomma, adesso il prete della Lega certo è un appellativo un po' giornalistico, naturalmente ci sta tutto, per carità. No, volevo solo dire questo, volevo fare anche un commento sul caso Battisti, in particolare sulla dichiarazione della Russa, che diciamo più che invitare al boicottaggio della partita o non andare, insomma, mi sembra che dovrebbero fare maggiori sforzi diplomatici piuttosto che, diciamo, concentrarsi su una partita, che mi sembra fuffa un po'. La cosa importante è l'aspetto diplomatico e di relazioni internazionali. No, su questo non c'è dubbio. Certo è che la partita Italia-Brasile è un'occasione importante anche per i politici per farsi sentire e vedere, come lei si sarà accorto. C'è un ascoltatore che propone una cosa che secondo lui è di grande impatto, potrebbe essere di grande impatto. Propongo che durante l'inno brasiliano tutti gli spettatori diano le spalle al campo in un silenzio surreale, una protesta civile di grande impatto. Non c'è dubbio. Io ho invece diversi dubbi, tanto per utilizzare la stessa parola, sul fatto che in realtà gli italiani siano coinvolti da questo caso. Ed è un fatto questo su cui riflettere. 19.37, andiamo a Modena con Ivano. Buonasera. Buonasera a lei. Dica. Ho telefonato perché io tutto sommato comprendo il Brasile, pur non condividendo la loro posizione. Per questa ragione sono lustri, più di 10 anni, che si sente il Presidente del Consiglio Berlusconi che se la prende con i magistrati politicizzati, grida alla persecuzione, minaccia di espatriare, l'ha fatto anche 2 giorni fa. Voglio dire, che deve pensare il ministro brasiliano, che effettivamente in Italia i magistrati perseguitano la gente e, voglio dire, sta tenendo anche la porta aperta a Berlusconi a questo punto, per assurdo, ovviamente. Sì, guardi Ivano, ho sentito numerosi pareri di questo tipo simili al suo. Diciamo, siccome spesso i nostri politici se la sono presa con la magistratura, allora il riflesso di questo atteggiamento nei confronti di un ministro brasiliano potrebbe essere quello di considerare, diciamo, la nostra magistratura poco credibile, no? E questo è il suo ragionamento. Carico da 11, figuriamoci. Sì, però secondo me queste cose non c'entrano niente. Secondo me no, però insomma, ripeto, rispetto la sua opinione, secondo me e oggi qualche articolo di giornale conferma quella che era la nostra tesi iniziale, hanno sortito effetto soprattutto le pressioni dell'ala sinistra del Partito dei Lavoratori Brasiliano sul ministro della giustizia. La ringrazio Ivano. C'è Gianluca da Carpio, poi Augusto, provincia di Firenze, Federico da Roma. Qualche minuto però con Alberto Torreggiani, che saluto e ringrazio. Buonasera. Salve. Allora, come sapete, è inutile che ve lo presento, Alberto Torreggiani è figlio del gioielliere Pierluigi Torreggiani, è su una sedia a rotelle per un attentato dei proletari armati per il comunismo. Ci sono delle novità importanti, perché Battisti, in un'intervista a Torreggiani ad un settimanale brasiliano, si rivolge anche a lei direttamente. Attraverso un deputato brasiliano molto vicino a lui e alle sue posizioni, dice che vorrebbe incontrarla. Lei come risponde? È strano che arrivi adesso questa richiesta. Al di là del fatto che comunque io l'avevo buttata lì nello stagno 3 anni fa dicendo sarei anche disposto a fare un incontro se evidentemente questo potesse aiutare a noi e a tutti quanti capire come stanno realmente le cose, visto che si continua a mettere un sacco di offuscamento riguardo a questa tesi molto semplice che è la sua condanna a 2 ergastoli. Dunque lei dice: già tempo fa, 3 anni fa avevo proposto un incontro, non ha ricevuto nessun tipo di segnale in quel caso? Ma io l'avevo buttata lì, qualche giornalista mi aveva fatto questa assurda proposta, io l'avevo buttata dicendo sì, non sarei per nulla contrario a farlo, ovviamente poi la cosa è finita lì, ovviamente era quasi una provocazione, ovviamente per vedere che tipo di risposta si sarebbe potuta avere. Ricordiamo che lui era ancora in Francia quando è successo questo. Certo, in un'altra intervista invece, quella che citavamo all'inizio al settimanale, alla rivista brasiliana Isto È, Battisti dice che quello che sta facendo lei, che addirittura intende adesso partire per il Brasile e poi insomma le ultime cose dette e fatte, è triste. Lui sa che io non ho niente a che vedere con tutto questo, perché ci siamo scambiati delle lettere, una corrispondenza di amicizia, sincerità e rispetto, ma lui soffre di pressioni da parte del governo italiano, stanno facendo pressione visto che possono togliergli la pensione. Vuole rispondere innanzitutto: è vera questa storia delle lettere o no? Partiamo da 2 presupposti. Il primo è che i giornalisti, sappiamo benissimo, sono bravissimi a mettere le parole giuste in un contesto. Per cui che lui sia dispiaciuto, che ci sia stato questo rapporto epistolare tra me e Battisti in un modo così amichevole, affettuoso, come sembra che lui descriva, tal punto come se fosse un mio carissimo amico. Non è in questi termini, prima di tutto. Cioè c'è stato questo rapporto epistolare, ma non nei termini che descrive Battisti, è così? Esatto, adesso te la posso anche comunque descrivere. Ovviamente la cosa poi verrà dichiarata e fatta vedere a chiunque nel modo più limpido. Cioè lei dice che nei prossimi giorni, non so quando, le lettere tra lei e Battisti verranno diffuse? Non sto dicendo questo, non voglio confermare, non voglio dire nulla, però sicuramente ovviamente farò le mie azioni riguardo, perché è giusto che la verità venga sempre messa alla luce, che tutti quanti la possano vedere e poi ognuno, come vede lei dalle varie interviste che fa, essere d'accordo o contrario. Così. Certo, no, voglio però chiedere una cosa, se può precisarmela naturalmente, non le chiedo il contenuto perché lei evidentemente non vuole ancora rivelarlo, è così il contenuto di queste lettere? Ti rispondo alla domanda che mi hai fatto. Sì. Allora, c'è stata sicuramente una proposta di poter questa scriverci queste lettere epistolari tramite un testo, una terza persona, è stato fatto, c'è stata una sua lettera, io ho risposto e nient'altro, la cosa poi è finita. Io ho, cioè ci sono 2 lettere, una lettera di Battisti e una sua risposta, basta? Poi c'è un conseguente, ma teniamoci su questa cosa qua, che lui ha detto che ha scritto a me dicendomi, spiegandomi, io ho risposto dando le mie motivazioni e quant'altro di quello che ho fatto, e non è nient'altro che quello che ho sempre ribadito. Verranno poi, sicuramente prima o poi si verrà a sapere che cosa sono, non ho nessuna difficoltà a doverlo fare, perché io mi sento completamente a posto con la coscienza di questa cosa, per cui non ho tramato verso il governo sulla richiedere l'estradizione e poi a lui dirgli ma no, ti credo, leggiamo quello che è stato scritto e poi ognuno deciderà che cosa pensa. Dunque non è stata una corrispondenza di amicizia, sincerità e rispetto come dice Battisti? Ma io ho rispetto e penso di averlo fatto capire, ho rispetto per chiunque, anche quelli che mi attaccano. cercano, anche altre volte è successo. Io penso che la cordialità sia la base della comunicazione, per cui non ci vedo... In quel caso, nella sua lettera di risposta è stato cordiale? Sì, penso che... No, no, ma mica non è un'accusa, si figuri. Non sono stato cordiale, sono stato quello che sono. La persona che io penso che ormai la gente pensa di aver capito che chi è Torre Gian Alberto. Poi lo vedrete sicuramente, spero che poi succeda questa cosa. L'altro punto, non è vero comunque che io ho pressioni per quanto riguarda dal governo su un'eventuale perdita della pensione o quant'altro. Sinceramente potrei anche dire altre cose che sono assurde. Non è che non sto facendo nulla di questo per quanto riguarda 4 soldi. Lo Stato mi dà una pensione leggibile in base a una legge. Se dovessi guardare quello che mi dà lo Stato, quello che io dovrei o potrei pretendere per quello che mi è stato causato come danno, sì, quelli sono spiccioli a riguardo. Non ho nessuna difficoltà a dirlo. Poi comunque, se uno va a vedersi la legge 206, sì, per le vittime del terrorismo, sa esattamente quanto prendo di pensione, per cui è la luce del sole. No, lo può dire anche, ce lo può dire anche a noi tranquillamente. Allora, io ho preso 2 tipologie di pensioni, perché come vittima diretta e come vittima di famiglia, sì, per un totale di 3.400 euro. 2.400 euro. 3.400. 3.400 euro. Parliamo delle cifre che poi qualcuno potrebbe pensare chissà che cosa. 3.400, se qualcuno pensa che siano troppe per una persona che comunque dopo 30 anni di invalidità, che ha sudato a fare il suo lavoro, a vivere sempre nel silenzio e non ha mai preteso nulla, siano troppe, che me lo venga a dire, non lo so. Non è la mia tesi, Torreggiani, lei lo sa benissimo, si figuri. Ma io sono sicuro che nessun italiano si abbia... No, però lei giustamente dà una risposta a questa cosa di Battisti. Le chiedo un'ultimissima cosa, poi la lascio. Ci può dire a quanto tempo fa risalgono queste lettere che lei ha scambiato con Battisti? Presumibilmente diciamo da circa 6 mesi fa, più o meno. 6 mesi fa? Sì. Beh, 6 mesi fa Battisti era in Brasile. Era in carcere. Era in carcere in Brasile, certo. La cosa che più mi dà fastidio è che dopo, nelle sue argomentazioni, per cui uno potrebbe anche ragionarci sopra, nelle sue argomentazioni poi succede quello che è successo. Quello che mi dà fastidio è vedere che lui cerca di mettere lì un qualcosa e in realtà poi ordiva su un'altra linea, perché se uno legge quello che lui scrive non avrebbe mai dovuto fare una richiesta pazza come quella che ha fatto. Questo è il mio punto di vista personale. Poi leggeremo naturalmente le parole di Battisti. Lei la vedrebbe volentieri Italia-Brasile o bisogna boicottarla, bisogna annullarla, Torreggiani? Cosa? Italia-Brasile, No, io lo continuo a ripetere, non bisogna boicottarla. I ragazzini, i bambini, i giovani hanno bisogno di qualche momento di divertimento. È una gran bella partita, sono le due nazionali più importanti del mondo, fanno gioco a spettacolo, ma lasciamo che i bambini si divertano, non mettiamoli dentro queste beghe a cui loro non c'entrano niente. La vita deve essere bella, facciamo in modo che si viva il più bello possibile. La ringrazio, sono belle parole. 1946 800 24 00 24. Andiamo agli ascoltatori. Federico da Torino. Sì, buonasera Cruciani, sempre complimenti per la trasmissione. Due punti nel mio intervento. Il primo riguarda Battisti. Come hanno già detto altri ascoltatori, è assurdo come sia riuscito a scappare dalla Francia senza che l'Italia riuscisse prima a farlo rimpatriare. E poi l'altro punto, sempre riguardo a Battisti, ritengo che il Brasile stia sfruttando questa situazione per avere una contropartita dell'Italia. Come era successo qualche anno fa con D'Alema, primo ministro, nel caso in cui il jet americano aveva tranciato il cavo netto nel nord-est d'Italia, per far sì che non andasse avanti la causa contro il pilota americano, venne fatta rientrare una terrorista dagli Stati Uniti. Il caso venne così seppellito. Penso che anche nel caso di Battisti il Brasile voglia sfruttare questa posizione. Penso che il legame sia legato soprattutto agli stabilimenti italiani in Brasile, che con la crisi economica sicuramente creeranno molta disoccupazione e che potrebbero creare ulteriore instabilità al Brasile. E dunque, non ho capito, il Brasile avrebbe intenzione di sfruttare la posizione di vantaggio? Beh, se fosse così, mi scusi, se fosse così non avrebbe concesso l'estradizione, o comunque avrebbe trattato sull'estradizione, non sarebbe andato avanti invece su un'altra strada. Probabilmente la contropartita offerta dall'Italia non era sufficiente a far sì che il Brasile lasciasse facesse partire Battisti. Beh, no, per carità, è una teoria forse fantapolitica. Un po' dietrologica, però ci può stare. Io credo che le cose siano andate in modo diverso. La ringrazio, Federico, per questa telefonata. Federico, un altro Federico da Roma, buonasera. Buonasera, salve, dottor Cruciani. Dica. Quello che volevo dire era relativamente al piano anticrisi del governo e al problema degli incentivi. Cioè, in realtà c'è stata una scelta politica di questo governo di fare determinate scelte, come quello di levare l'ICI e invece di aiutare le famiglie, perché la crisi sarebbe ripercorsa sull'economia reale, che secondo me sono completamente sbagliate, e per questo bisogna, diciamo, decidere e giudicarle. E poi volevo dire un'altra cosa relativamente al prete, cioè al Benedetto XVI, che ha tolto la scomunica al prete Leo Fevriano. Sì. E ha veramente scelto un momento peggiore, perché è proprio il giorno della memoria, cioè veramente un errore, secondo me. Un errore, la ringrazio. Secondo lei un errore? Leggo in un'agenzia diffusa pochi minuti fa che preti su tutt'altre posizioni rispetto ai Fevriani, perché poi all'interno della Chiesa Cattolica ci sono le posizioni le più disparate, le più diverse. In particolare Leonardo Boff, che come molti voi sanno è un teologo tra i fondatori negli anni 70 della teologia della liberazione, che partecipa a Belém al World Social Forum, dice che dalla mossa del Papa ci sono dei rischi di scisma addirittura della componente progressista della Chiesa Cattolica. 19:50, andiamo a sentire Augusto dalla provincia di Firenze. Augusto, buonasera. Buonasera, buonasera anche a lei. Dica. Dottor Cruciani, senta, per quanto riguarda il Brasile, io mentre sono perfettamente d'accordo, anzi sono stato tra i primi a mandare del segnale dell'MS, proprio di dimostranze per problema Battisti, però sono nettamente contrario a qualsiasi forma di boicottaggio sia dei prodotti sia delle manifestazioni, perché ritengo si debba fare una distinzione tra quello che è il rapporto con i brasiliani, con il popolo brasiliano, col quale insomma istintivamente io nutro simpatia, insomma, rispetto alle prese di posizione di alcuni dirigenti. Quindi va benissimo intensificare l'azione diplomatica e mandare da parte dei cittadini queste mail, questi biglietti, magari avendo conoscenza con alcuni brasiliani. È possibile introdurre anche delle frasi in portoghese in maniera che facciano risaltare. Ma si capisce lo stesso, Augusto, in questo caso. Sì, sì. Per quanto poi riguarda viceversa il discorso delle europee, sì, delle elezioni europee, del Parlamento, io pur essendo orientato generalmente verso i partiti minori sono d'accordo con lo sbarramento, perché credo che in Europa ci debba andare più un gruppo che non il singolo. È vero che le funzioni vengono svolte dal singolo se ha le capacità, però tendenzialmente un gruppo lo vedo migliore. I piccoli partiti che oggi si presentano, secondo me, lo fanno più per poter riscuotere il contributo per le spese elettorali che non per portare veramente un discorso costruttivo. Sono d'accordo con lei, Augusto, anche se in realtà non c'è un governo da esprimere in Europa, no? E però le ripercussioni in Italia dal ritorno dei Nanetti, almeno secondo me, potrebbero essere anche gravi, perché comunque di nuovo segreterie, soldi, finanziamenti, insomma si rimette in moto il carrozzone, che in realtà poi non è mai finito sul serio, e però è stato fortemente limitato alle passate elezioni per volontà degli elettori, che grazie anche a una legge elettorale, adesso lasciamo perdere la questione delle preferenze, hanno scelto tra due, più o meno tra due grandi partiti con vari, o comunque tra due blocchi, ecco, diciamo così, centrati su due partiti. Prego, Augusto. Se mi permette, vorrei aggiungere anche un fatto che è estremamente negativo, che i nostri parlamentari, molti altisonanti, non so, D'Alema, La Bonino, Brunetta, Bersani, Frattini, il nostro qui a Firenze, Pistelli, sono personaggi che si sono fatti prima eleggere al Parlamento europeo, poi a poco più del mandato se ne vengono via e ritornano al Parlamento italiano. Questa è un modo, cioè chi si presenta, chi si candida per le europee dovrebbe garantire che se eletto rimane lì per tutto il periodo. Eh beh, Augusto, questo non è che si può impedire naturalmente a una persona di dimettersi, eccetera, questo è impossibile, però non è indice di serietà, certamente. Non scordiamoci che Santoro ha aspettato la pronuncia di un tribunale italiano sulla sua riabilitazione alla RAI per andarsene dal Parlamento europeo, e così anche altri, eccetera. La ringrazio per questa bella telefonata, Fabio, che ci chiama da Torino. Buonasera, Fabio. Buonasera, buonasera. Dica. Chiamavo per la sentiamo malissimo e dunque la richiamiamo perché il suo telefono è disturbato. Giacomo da Milano. Sì, buonasera. Dica. Volevo farle i complimenti per quella frase tratta da Biancaneve, se non vado errato. Arrivano i nani. I nanetti che tornano, fra poco ne sentiremo uno, magari ci tratterà male per averlo chiamato nanetto. Risentiamo quella, i nanetti, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo i nanetti? Sentiamo. Ma siete dei nanetti! Nanetti che vogliono diventare grandi, vogliono di nuovo posti, eccetera. Per è carità, è legittimo, adesso io ci scherzo sopra, ma è legittimo che un partito dello 0,7 voglia avere uno scranno al Parlamento europeo, 0,8, 1%. Ognuno motiverà questa cosa con delle posizioni ideali, i repubblicani, i socialisti, le mille sigle dei comunisti, eccetera, eccetera, e altri ancora, i verdi. E soprattutto Mastella, che Mastella ha trovato, questi ultimi mesi ha trovato modo di farsi pubblicità, ad esempio andando dall'Avventura. Eh beh, sì, a quelli che è il calcio. L'impiato su un campo. Ospite fisso, fisso. Un'ottima idea, no? Per ritornare al buon occhio della gente dopo quello che ha fatto. In Beh, insomma, è invitato un po' dappertutto. Bisogna anche dire che Mastella, per esempio, sicuramente a mio parere troverà un accordo con qualcuno per tornare in sella al Parlamento europeo. Non è da escludere. Però a questo punto deve trovare un accordo con qualcuno. Non è che può presentarsi con l'Udeur, perché difficilmente supererebbe il 4%. Certo, infatti, ma è fondamentale che Veltroni resti fermo nelle sue posizioni, cioè nella sua grande scelta che ha fatto qualche mese fa di cambiare la politica italiana. È assolutamente necessario che continui così con qualche tentennamento a un certo punto, perché prima diceva no, lo sbarramento non ci vuole, l'accordo non lo possiamo fare, Berlusconi è cattivo, eccetera. Poi adesso pare ci sia un accordo, certo, c'è stata una trattativa, restano le preferenze che Berlusconi voleva togliere, a un certo punto non voleva fare più niente Berlusconi, restano le circoscrizioni così come sono adesso, ma insomma io credo che sia meglio avere lo sbarramento. Poi qualcuno mi criticherà dicendo che sono posizioni antidemocratiche, ma insomma lo sbarramento c'è in tanti paesi e nessuno si scandalizza. Non sono posizioni antidemocratiche, questo è il problema, ognuno può dire quello che vuole, ma in realtà non lo sono. Non lo sono. La ringrazio. Andiamo a Chieti, Antonio. Buonasera. Sì, buonasera, Zucchini. Allora, volevo dire riguardo alle Battiste che sono un po' perplesso questo accanimento del governo brasiliano non farla dare indietro Battiste. D'altra parte, non capisco neanche perché tutta questa pubblicità politica contro il Brasile. Quando penso che il corpo diplomatico italiano potrebbe benissimo in qualche modo trattare. No, guardi, io però non ho visto un accanimento nei confronti del Brasile in quanto paese. Mi perdoni, Antonio, so che lei dall'accento mi sembra che qualche legame col Brasile ce l'abbia. Sì, guarda, io sono brasiliano, sono qua da 15 anni, però non sono d'accordo con il governo brasiliano di non deportare Battiste. Deportare è una parola brutta, però la assolviamo in quanto brasiliano, insomma, di non estradare di non estradare Battisti. Lei dice di non essere d'accordo e va bene, però ripeto, nessuno se l'è presa col Brasile in quanto paese, però, Ma oddio, quando si dice di girare le spalle perché nel momento dell'inno, di non fare una partita amichevole, cioè, penso che sia un po' di accanimento. D'altra parte, quando c'è stato il problema in Francia, che c'era una signora lì che dovrebbe essere riportata in Italia, mi sembra che sia intervenuto anche il governo francese, non voleva mandarla via, però non ho visto nessuna protesta, protesta. Sì, no, ma no. Infatti nei confronti della Francia secondo me abbiamo fatto poco. Bisogna dire che la Francia non ha mai esplicitato, come ha fatto il ministro della giustizia in una motivazione, a parte la dottrina Mitterrand, che in Italia non c'è la democrazia e che ci potrebbero essere ancora infiltrati dalla CIA o della mafia a perseguitare Battisti, eccetera, eccetera, e che una sentenza è stata invece, che sono sentenze scritte sull'acqua, quelle contro Battisti. Bene, la ringrazio Antonio di questa telefonata, un brasiliano che è contro la decisione del suo governo, però mi sembra contro anche il boicottaggio della partita, no Antonio, se non sbaglio, non c'è più. Eccoci, 21 minuto, TG1, sentiamo i titoli. Tremonti, ora riforme per pensioni e welfare, USA, piano anticrisi, ok, e Obama cancella discriminazioni di razza e sesso sul lavoro. Il terrorista Battisti, la mia fuga coperta dalla Francia, Frattini, idea assurda, si discute se cancellare la partita col Brasile. Gli striscioni degli amici di Davide, lo stupratore di Roma, dividono l'opinione pubblica, sondaggio internet del TG1. Cane muore ma con il DNA una coppia miliardaria americana lo fa clonare. Italiani perplessi, gli amici a quattro zampe sono unici. Celentano, Mike Buongiorno e tante celebrità ai funerali di Mino Reitano, in migliaia commossi per l'ultimo saluto. Al TG1 sei tu, i vostri video con storie di disabili coraggiosi che... Bene, andiamo a sentire anche i titoli del TG5. Battisti sostiene che i servizi francesi coprirono la sua fuga. Frattini, così dimostra bassezza morale. La Russa, no all'amichevole di calcio con i brasiliani. Stasera a terra il caso Battisti visto dal Brasile. Crolla un costone a Tropea, danni alla linea ferroviaria, chiuso un tratto della Salerno-Reggio Calabria. Bertolaso, queste cose non devono accadere più. Le camere a gas per disinfettare, frase shock di un prete lefevriano. Lettera del Vaticano al rabbinato di Israele, incontriamoci. La risposta, apprezziamo e valuteremo. Delitto di Garlasco, stabilita l'ora della morte di Chiara Poggi. La nuova perizia smonta l'alibi del fidanzato Alberto Stasi. Lacrime e applausi per l'ultimo saluto a Mino Reitano. Nella chiesa di Agrate Brianza, tanti amici, da Celentano a Morandi, da Little Tony a Mike Buongiorno. Finisce in manette, arrestato per frode, l'inventore dei T-Red, i semafori intelligenti. Oltre 100 indagati, migliaia di contravvenzioni contestate. Stasera torna a Scherzi a parte con un tristi conduttore. Bene, questi i titoli, fra poco sentiremo anche la 7. Andiamo a Ferrara da Roberto. Buonasera Roberto. Buonasera. Dica. Dunque, io sono assolutamente d'accordo con ogni tentativo possibile per... riportare in casa, in galera, dove è giusto che stia, Battisti, come tutti gli altri delinquenti o tutti gli altri passati con delle condanne passate in giudicato. Non mi so spiegare per quale motivo non sia successo anche per Bettino Craxi. Guardi, sarebbe troppo lungo spiegare queste vicende. Io non capisco perché quando si affronta una discussione di questo tipo che riguarda Battisti, c'è sempre qualcuno che dice ma quell'altro, ma perché non quell'altro, ma perché allora quello, ma perché non Zorzi, che poi non c'entra niente, perché per carità, secondo me dovrebbe essere estradato perché ancora non c'è una condanna definitiva, perché Craxi non è stato estradato dalla Tunisia. Guardi Roberto, sarebbe troppo lungo spiegare i rapporti che c'erano tra Craxi e il governo tunisino, i trattati esistenti tra l'Italia e la Tunisia, eccetera eccetera. Non mi addentro, però io penso che sia un approccio sbagliato quello di dire sempre, si chiama benaltrismo questo, o no? No, no, assolutamente, cioè la giustizia è uguale per tutti, è giusto che la giustizia sia uguale per tutti, tra l'altro dovrebbe essere una cosa automatica, cioè lo Stato, ogni Stato che si rispetta deve avere certezza che tutti i delinquenti che vengono passati in giudicato devono essere portati in galera. Sì, d'accordo, il principio è naturalmente quello corretto, però io per esempio riconosco a Battisti il diritto a scappare, cioè secondo me tanto di cappello, perché sapete la posizione che abbiamo su Battisti, stiamo facendo una campagna perché torni in Italia, perché si è stradato, però bisogna dire chapeau, una fuga romanzesca, aiutato dai servizi francesi, sfrutta le magagne delle democrazie, le burocrazie, le lentezze, le pigrizie in alcuni casi, arriva in Brasile dove sa benissimo che può essere aiutato e alla fine la fa franca, cioè, è un numero uno da un certo punto di vista, è un numero uno del male, è però un numero uno. Stesso discorso riguarda anche Craxi. Può darsi che sia così. C'è il diritto, c'è il diritto a scappare quando naturalmente si pensa che una condanna sia ingiusta, e Craxi lo pensava, e naturalmente lo pensa anche Battisti, così è, così va la vita, e dunque chapeau da questo punto di vista. Grazie Roberto per la sua provocazione. 25 minuti, Riccardo Nencini, a proposito di socialisti, segretario del Partito Socialista, quello attuale naturalmente. Nencini, buonasera. Buonasera, come sta? Non c'è male, lei? Bene, grazie, molto bene. Beh, però lei pensa che la democrazia sia in pericolo. Mi spieghi un po', leggo sul sito del Partito Socialista, legge truffa 09 con addirittura Berlusconi nei panni di, credo, Totò, non so chi, che vende il Colosseo, una cosa di questo tipo, regia di Veltrusconi, un grave attentato alla democrazia, stiamo parlando della legge elettorale che dovrebbe essere votata la settimana prossima con lo sbarramento a 4%. Dov'è l'attentato alla democrazia? Beh, ce ne sono 5 di attentati alla democrazia. Il primo è che le procedure per le elezioni europee sono già in campo ormai da un mese. Ci sono già partiti che stanno raccogliendo le firme, come la legge prevede, a 6 mesi dal voto. Quindi la partita è già iniziata e si cambiano le regole a partita già iniziata. Secondo, va spiegato agli italiani che ci ascoltano innanzitutto che non c'è un risparmio se i partiti più piccoli non sono al Parlamento europeo, perché il finanziamento pubblico se lo divideranno comunque i grandi partiti che avranno o i medi partiti che hanno degli eletti. Terzo, non mi pare che le cose vadano meglio in Italia ora che i partiti sono di meno. Siamo in regime di bipolarismo imperfetto e mi pare che la confusione alberghi sovrana. Poi le dico un'ultima cosa. Siamo a quota 4. Prego? Siamo a quota 4, Nencini? Sì, se vuole le dico anche la quinta. No, la quarta è che al Parlamento europeo non c'è nessun problema di governabilità. Lì non si elegge un governo, si eleggono dei parlamentari. Sì. Quinto, c'è un accordo che dietro nasconde un altro accordo vero sia sulla RAI, come sta succedendo, sia sui regolamenti parlamentari, e siamo a 5. Sì, e devo dire una cosa, che non è che fare accordi sia di per sé sbagliato. Assolutamente. Bisognerebbe farli però sulle cose, diciamo, rilevanti. Io avrei preferito, ad esempio, un bell'accordo sulle tante riforme economiche che il Paese attende. Questo sì che è centrale, penso al caro vita, penso al precariato. E che al Parlamento non ci sia governabilità, quello è, al Parlamento europeo non ci sia bisogno di governabilità, questo è corretto. Io penso anche, c'è da riflettere sulla partita già iniziata, perché effettivamente se proprio bisognava fare un accordo, forse pensarci prima sarebbe stato meglio. Insomma, indubbiamente. Su questo anche io, che sono invece un fautore dello sbarramento, mi trovo d'accordo con lei. Sul finanziamento pubblico, secondo me lei ha ragione, perché le cifre non cambiano, naturalmente. No, fatto il tetto 100, quel 100 viene comunque diviso, quindi il Ministero del Tesoro italiano continuerà a pagare e gli italiani pure contribuiranno al finanziamento pubblico. E però le dico una cosa, Nencini, il sistema politico, non c'è dubbio, nonostante quello che lei dice le cose non vadano meglio, beh, insomma, comunque si è semplificato. Ora, rimettere in campo un partito dell'1%, del 2%, per carità, questi partiti prendono posizioni legittime, cioè vogliono partecipare per i loro ideali, per le posizioni politiche ad una battaglia europea, e va benissimo, sono legittimati a farlo. Però insomma, io credo che anche alle elezioni europee ci dovrebbe essere una semplificazione di tutto il sistema, o no? Ma in linea di massima sono d'accordo anch'io, andava pensata prima. Secondo, io rappresento un partito che è un pezzo rilevante della storia d'Italia, io non ho un partito personale, non guido un partito personale. Guido un partito che ha inciso profondamente nella storia del Novecento italiano, e non soltanto italiano. Al Parlamento europeo il gruppo più grande è quello del Partito del Socialismo europeo. Forse il diritto a presentarsi io dovrei averlo maturato nel tempo, con qualche interesse anche. Senta, però in altri paesi lo sbarramento c'è e nessuno si scandalizza. Ma non in tutti i paesi. Il grande equivoco che è stato pubblicamente ammesso, ed è una grande menzogna, è che tutti i paesi dell'Unione Europea abbiano sbarramento. Non è assolutamente vero. Ce l'hanno qualcosa più della metà. Beh, però esistono paesi che ce l'hanno e nessuno grida all'attentato alla democrazia, ecco. Non c'è dubbio. Sono paesi che hanno tradizioni diverse dalle nostre, ad esempio. Sono paesi dove il bipolarismo ha una storia secolare e dove ci sono grandi partiti di massa, un grande partito di destra e un grande partito di sinistra, ad esempio. Noi non siamo nella stessa condizione, noi siamo in un bipartitismo, in un bipolarismo molto anomalo, dove da una parte c'è il partito di Di Pietro, che è un partito di destra per i suoi connotati, che svolge la maggiore opposizione a questo governo e che sta formalmente a sinistra, e c'è la Lega, che è determinante è stata determinante per far vincere il centrodestra ed è determinante per tenere in piedi il governo Berlusconi, quindi non è proprio un bipolarismo europeo quello italiano, anzi. Bene Nencini, la ringrazio. Prego, voi andrete al Quirinale, sembra, alle 12 di martedì prossimo a protestare. Esatto. Vi incatenate, no? No, qualcosa di più ironico. Poi vedremo, vedremo. Bene, grazie, lavoro, grazie. Lei si scandalizza o se la prende se venite chiamati nanetti? Ma io sono 1,80 m e peso 80 kg. Lei non è un nanetto, cioè. No. Bella ironia. No. Abbiamo vinto un giro di Francia poi in famiglia, e un giro d'Italia. Sì, lo so. Senta la nostra sigla sulla questione dei nanetti che protestano contro la democrazia. Giochiamo su questo. Senta. Prego. Ma siete dei nanetti! Beh, i nanetti, nel caso dei socialisti, con una certa tradizione, anche se ci sono dei socialisti all'interno del Partito Democratico, degli ex socialisti, non è che c'è. Ma sono pochini, guardi. Va bene, grazie Nencini, buona serata. Buon lavoro, arrivederci. Roma, Gianfranco, eccoci. Gianfranco. Buonasera, dottore. No, volevo dire che il Corriere della Sera, in prima pagina, sì, su sei colonne, scrive praticamente, il titolo è attacco al Colle, bufera su Di Pietro, poi riporta, fra virgolette, il discorso di Di Pietro, ovviamente sì, ne porta sei righe, le prime tre, e poi porta le altre due, che dice il silenzio uccide, il silenzio è un comportamento mafioso. Io l'ho visto su YouTube, ma lo posso vedere in tutti i blog. Di Pietro questa frase l'ha detta a distanza di almeno due minuti rispetto al momento in cui si rivolge a Napolitano. No, guardi, la frase, guardi, no, no. Anch'io sulla frase ho dei dubbi se si è rivolta a Napolitano o no, ma tutti i giornali indistintamente gliela attribuiscono, sì, e, non c'è, e non c'è un complotto contro, no, Di Pietro. No, io sono io non voglio difendere nessuno. Dico semplicemente che per curiosità, sì, ho guardato YouTube e c'avevo il giornale davanti, ho, sì, seguito il discorso di Di Pietro, ad un certo punto Di Pietro parla di ben altre cose, poi ad un certo punto aggiunge la frase il silenzio uccide, il silenzio è un comportamento, no, mafioso. Ma guardi che si rivolge al capo della si rivolge al capo dello Stato. Lo mette attaccato. No, non, ma guardi, Gianfranco, una distanza di 30 secondi è attaccato. Il discorso è su Napolitano. No, 30 secondi. Lo faccio ascoltare, guardi. Adesso lo recuperiamo. Lo recuperiamo. Lei lo recuperi. Lei senta, guardi il discorso di Pietro, controlli sul Corriere della Sera, che tra l'altro è il mio giornale, e lei poi guardi quanto intervallo c'è fra il momento in cui dice, prima che dica la frase il silenzio uccide, il silenzio è un comportamento mafioso. Si riferisce a, è generico, le posso garantire. L'ho sentito, non sono. Guardi, no, ma lo so, Gianfranco. Naturalmente, questa. Un'altra cosa, sì, ingloba tutti in effetti, è giusto, ma non si rivolge a Napolitano, assolutamente. Io me lo sono visto 5 volte. Guardi Gianfranco, anch'io ho avuto un dubbio ieri e l'ho anche espresso sul mafioso rivolto a Napolitano. Oggi leggo che praticamente tutti i giornali, naturalmente con toni diversi, Libero interpreta in un modo, il Corriere della Sera in un altro. Ma non dico quello che dicono gli altri giornali, io dico semplicemente basta leggere, se vedere Di Pietro su YouTube o su un altro blog, quello che vuole, sì, e poi leggere il Corriere della Sera o altri giornali, come giustamente dice lei controlli e poi vediamo se questa frase è da attribuire direttamente a Napolitano o è generica? Va bene, d'accordo. Napolitano. D'accordo, grazie okay. Gianfranco. Arrivederci. Allora, riascoltiamo questa frase di Pietro, se ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, l'abbiamo recuperata, la frase di Pietro, sentiamo. E possiamo permetterci, signor Presidente della Repubblica, di accogliere in questa piazza anche qualcuno di noi che non è d'accordo su alcuni suoi silenzi? Siamo dei cittadini normali che ci permettiamo di dire a lei, signor Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere l'arbitro, che a volte il suo giudizio ci appare poco da arbitro e poco da terzo. Lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire o no? Rispettosamente, ma il rispetto è una cosa, il silenzio è un altro. Il silenzio uccide. Il silenzio è mafioso. Beh, insomma, guardi, caro Gianfranco, sono passati dalla parola napolitano al silenzio è mafioso. I silenzi no. Insomma, sono passati quanti? 30 secondi, 35. Quant'è tutto il file che abbiamo ascoltato? 53. Insomma, adesso non scherziamo. Insomma, il riferimento è chiaro nei confronti di Napolitano. Adesso, risentendolo anche, non ci sono dubbi. La ringrazio. Dove andiamo? Pistoia, Andrea, buonasera. anche al dottor Cruciani. Dica. Io appunto, in riferimento a questa dichiarazione di Di Pietro, io mi trovo profondamente contrario, se non altro perché secondo me ci vuole più responsabilità nell'uso delle parole e dei discorsi da parte della nostra classe politica. Spesso si sente la nostra classe politica permettere di dire tutto quello che gli pare, senza che poi alcune persone ne prendano le conseguenze. In questo caso Di Pietro io ritengo che non sia nuovo a queste uscite e secondo me queste uscite sono uscite propagandistiche, sfruttando una diciamo parte emozionale della sensibilità di alcune persone, toccando argomenti difficili come appunto le vittime mafiose. Io penso che ci voglia più responsabilità da parte di tutti, in maggior luogo da parte della nostra classe politica, che troppo spesso si permette di fare delle uscite molto gravi, secondo me da censurare, come questa appunto di Pietro nei confronti del Presidente della Repubblica. Tanto non succederà niente, non ci saranno prese di posizione, mi meraviglia anche Scalfaro che possa dire che siamo al limite del reato. Perché la meraviglia? Mi meraviglia perché non si può anche lì dire siamo al limite del reato senza poi prendere una posizione dura e andare fino in fondo a questa storia. Vabbè, che Scalfaro che dovrebbe fare? Lui dice che c'è al limite, si tratta anche di un reato, lo dice. Bene, allora verifichiamolo, verifichiamo quello che c'è stato, verifichiamo e non poi alla fine nascondersi come ho sentito l'altra dichiarazione di Pietro, come ha citato lei all'inizio, dicendo che era assolutamente rispettoso nel capo dello Stato, non è stato assolutamente un discorso, ma era una presa di posizione importante per il rispetto delle vittime della mafia. Ma cosa c'entrano le vittime della mafia? Poi questo non sono capisco il collegamento tra i silenzi di Napolitano e le vittime della mafia. È tutto Di Pietro ha fatto tutto un mischione, le vittime della mafia, il silenzio sul Lodo Alfano, immagino che si riferisse a quello. Non capisco. Bene, allora voglio dire, non sfruttiamo il dolore sicuramente o le persone vittime della mafia per propaganda elettorale, propaganda politica anzi. Quindi quello che io dico è cerchiamo di dare un peso giusto alle parole, cerchiamo di valutarlo, di valutare le persone per quello che dicono e diamo un attimino un po' più di responsabilità. Queste persone mi sembra, la nostra classe politica, alcuni esponenti della nostra classe politica si permettano di fare delle uscite così, molto gratuitamente e andando solamente a toccare la sensibilità di alcune persone. La ringrazio Andrea, naturalmente lei immagino si riferisce a tutta la classe politica per intero, no? Non solo a Di Pietro, insomma, anche a chiunque fa uscite diciamo sopra le righe, non che una sana provocazione non ci voglia. Allora vi leggo quello che Antonio Polito, il direttore del Riformista, ha scritto oggi sul suo giornale a proposito di questa manifestazione. Sono cose molto dure che io condivido in pieno al 100%, ma naturalmente io mi aspetto anche i vostri commenti su questo perché so che ci sono molti di voi che ci ascoltano che sono fan di Di Pietro e del suo gruppo, del gruppo intorno a Di Pietro, che si raduna intorno a Di Pietro. Adesso c'è un nuovo adepto, anzi era già adepto, che è Camilleri, lo scrittore Andrea Camilleri, che vuole addirittura presentare un gruppo alle elezioni europee affiancato all'Italia dei Valori. Chiusa parentesi, Di Pietro è andato ieri in piazza in difesa, scrive Polito, della magistratura a suo dire, e ha accusato Napolitano di non fare l'arbitro. Però ieri i manifestanti, pochi per la verità, protestavano contro, non per la magistratura, contro il CSM e le sue decisioni che hanno bloccato la guerra tra le procure di Salerno e Catanzaro, che un altro membro del nuovo pool de magistris aveva avviato, e contro l'ANM accusata da un altro nuovo eroe del pool, il procuratore capo di Salerno Apicella, di essersi venduta al nemico. Il circo Di Pietro ha protestato dunque ieri contro la magistratura italiana, le sue regole, il suo organo di autogoverno, la sua associazione e la sua giurisdizione. Forse anche per mettere in mora la consulta che a breve dovrà decidere sul Lodo Alfano. Di Pietro ha manifestato ieri contro lo Stato di diritto. E allora perché sorprendersi se l'ultimo missile è stato scagliato contro il capo dello Stato che è dello Stato di diritto, per come è scritto nella Costituzione, il supremo garante? Insomma, Napolitano poi ci viene descritto, scrive Polito, come indignato. Mentre Di Pietro offendeva Napolitano in piazza, il PD votava con Di Pietro in aula. Secondo Polito, il PD dovrebbe dichiarare che Di Pietro è un avversario politico. Io condivido in pieno queste analisi, ma ripeto, aspetto anche i vostri interventi su questo. Andiamo in provincia di Caserta. Francesco, buonasera. Buonasera. Dica. Allora anche il PDL dovrebbe dichiarare che Bossi è un avversario politico, visto che Bossi più volte si è bilanciato lanciando invettive nei confronti del capo dello Stato. come questa come premessa. Comunque, beh, dovrebbe prendere le distanze in maniera molto forte, su questo non ci sono dubbi. E dunque ha sbagliato quando non l'ha fatto. L'ascoltatore precedente, il quale ha letto, cioè come lui ho sentito il discorso di Di Pietro, e non mi pare che Di Pietro, non c'entra nulla in 20 secondi, non mi pare che Di Pietro si sia riferito a Napolitano. Ma guardi, Francesco, abbiamo sentito le parole, l'interpretazione è chiara, perché anch'io ho sentito le parole. Lei non si riferiva a Napolitano, non si riferiva a Napolitano. Lo possiamo dire o non lo possiamo dire? Quindi in questo senso dice dovremmo starci in silenzio, ma no, il silenzio secondo noi è mafioso, perché... Ma guardi che già il silenzio... Sì, Francesco, già il silenzio lo attribuiva a Napolitano prima. Io non capisco perché, mi scusi, da parte di Di Pietro e dei cosiddetti dipietristi o dei fan di Di Pietro, lo dico non in senso ironico, Francesco, non so nemmeno se lei sia in realtà un fan di Di Pietro oppure no, si dicono delle cose anche pesanti e un secondo dopo ci si tira indietro. È una cosa incomprensibile, bisogna avere anche, come dire, responsabilità, e bisogna anche prendersi le proprie responsabilità e andare avanti sulla strada che si è intrapresa. Guarda, non riesco a capire. Ho capito, riguardo questo primo aspetto qui di Pietro, cioè è impossibile dire che Di Pietro non abbia espresso un'opinione diversa da quella del Quirinale, perché l'ha espressa. Altro è dire che Di Pietro ha chiamato mafioso il Napolitano, cosa che non è vera. Sì, d'accordo, guardi che le parole qualche volta non è che per forza debbano essere dirette, non è che debbano essere dirette, certamente Di Pietro non direbbe mai, è troppo furbo per dirlo, che Napolitano è un mafioso, però non lo so, ma certamente non lo pensa, immagino proprio che non lo pensi, insomma, anche se lo pensa, non stiamo qui a fare il processo alle intenzioni, ma mettendo insieme la questione dei silenzi, Napolitano e l'atteggiamento omertoso e dunque mafioso, naturalmente poi si attribuisce a Napolitano un atteggiamento omertoso e dunque mafioso. È naturale, è così, che Di Pietro lo voglia oppure no, perché qualche volta secondo me non si rende nemmeno conto delle parole messe insieme, o no? Forse diciamo Di Pietro ha un atteggiamento un po' teatrale talvolta, però comunque io penso che la sua critica sia stata rivolta più, diciamo, nei confronti di quella, cioè si voleva rivolgere a se stesso, cioè nei confronti di un'autocensura. Voleva dire, lo possiamo dire o no che non siamo d'accordo con lei, ma comunque Di Pietro a parte, io volevo dire un'altra cosa sul caso Battisti, se possibile. Prego, dica. Ho sentito, diciamo, da giorni si parla di questo caso. Come premessa volevo dire questo, secondo me si sta parlando fin troppo di questo caso, anche perché diciamo i temi all'ordine del giorno, ne parlava oggi la Marcegaglia, sono altri e ben più gravi, cioè la crisi economica. Sì, d'accordo, Francesco, lei ha ragione. Per quello che ci riguarda abbiamo trasmissioni intere che si occupano di questo più volte durante il giorno, i giornali radio con tutte le notizie, naturalmente noi ogni tanto ci torniamo sopra alle questioni economiche quando è il caso, stiamo facendo per quello che ci riguarda una battaglia su Aridateci e Battisti, non sarà la cosa più importante di cui si occupano gli italiani, ma è una questione di dignità nazionale ed è anche una questione secondo me di principio e di giustizia. Cosa vuole che le dica? Secondo lei il caso Battisti oscura le altre notizie? Non mi sembra, e poi si può intervenire su qualsiasi cosa come lei sta facendo. La ringrazio. Ferdinando da Milano. Pronto? Dica. Pronto, buonasera dottor Cruciani. Sento, io sono un magistrato in pensione da poco tempo, ma ho prestato gli ultimi 18 anni del mio servizio alla Corte d'Assise di Appello di Milano e volevo dare una precisazione sul i rapporti di estradizione, specialmente con la Francia. Mi sembrava che il sottosegretario, credo fosse il sottosegretario, sì, che avete intervistato in apertura di trasmissione, fosse, come dire, un po' incredula sul comportamento della Francia. Sì, no, era il ministro Meloni, sì. Ministro, noi abbiamo come Corte d'Assise, su richiesta della Procura Generale, reiterato per decine di volte, poi inoltrando le richieste per via diplomatica, l'estradizione di persone rifugiate in Francia, ex terroristi, condannati con sentenze definitive per reati molto gravi, compreso l'omicidio, ma anche reati comunque gravissimi come rapine, lesioni personali gravi ed altro, detenzione di armi, esplosione in luogo pubblico, tutto il repertorio di reati commessi in quel periodo. Non ci sono mai state accettate queste richieste di estradizione. La Francia non le ha mai, niente, non è anche risposto praticamente. non sono stati mai estradati dalla Francia. Dunque, non solo lei dice quando siamo in presenza di reati tra virgolette politici che non bisognerebbe nemmeno descrivere in questo modo. Questo semmai è un'ulteriore precisazione, è la strana idea che ha la Francia sui reati politici. In Italia non esistono reati politici, certo. può esserci un reato tipo, non so, la propaganda sovversiva, sì, ecco, certo. Che quella potrebbe essere. Ma quando uno ammazza una persona non è che... una persona. In Italia esiste nel nostro ordinamento penale la possibilità, in casi eccezionali, tenuto conto del contesto, di quel che è successo, del momento politico, della tensione, eccetera, si possono riconoscere delle attenuanti. Certo, Ferdinando, mi scusi perché ho la borsa, resti però in linea con noi oppure la richiamiamo noi naturalmente perché... È interessante la sua posizione, quello che ha fatto in tutti questi anni, soprattutto la sua esperienza con le estradizioni chieste alla Francia. Bene, 20:35, andiamo a sentire il titolo del TG2, poi torniamo sempre all'800 24 00 24 con l'ascoltatore da Milano Ferdinando. Ci sono anche diversi ascoltatori in linea, speriamo di sentirli tutti fino alle 20:44. TG2. Automercato in crisi, in arrivo incentivi ecologici alla rottamazione, aiuti anche al settore energetico. Il ministro Tremonti, piano italiano anticrisi da 40 miliardi di euro. Cesare Battisti rivela, i servizi segreti francesi mi hanno aiutato a fuggire in Brasile. Scettico il ministro Frattini, spero ancora nella sua estradizione. L'Unione Europea si chiama fuori, il caso non è nostra competenza. Primo via libera alla Camera la legge anti-stalking, i molestatori saranno condannati con pene tra i 6 mesi e i 4 anni. Il ministro Carfagna, una legge voluta da tutte le forze politiche. Calabria spaccata in due, traffico in tilt per l'emergenza frane causata dalle piogge. Chiusi 60 km della Salerno-Reggio Calabria, decine di tiri incolonnati, camionisti esasperati. Tanta gente è davvero commossa oggi per l'addio a Mino Reitano, molti anche i volti noti, il ricordo di Celentano. Da tutto il mondo, via internet, migliaia di messaggi e testimonianze d'affetto. Bene, allora, Ferdinando, un ascoltatore da Milano, ex magistrato, da poco, diciamo, fuori dalla magistratura, se non sbaglio, Ferdinando. Poco più di due anni. Più volte ha avuto a che fare con le estradizioni dalla Francia. Mai concesso. Faceva parte del nostro lavoro, noi non facevamo solo quello, ovviamente. Certo, che idea si è fatto di questi rifiuti francesi? Beh, quello che stavo dicendo prima, ecco, e concludo che non voglio togliere spazio ad altri ascoltatori. Il problema è proprio quello del malinteso senso del reato cosiddetto politico che c'è in Francia, e quindi non vorrei che la stessa cosa si fosse trasmessa per altre vie anche al Brasile. C'è questa idea che dicevo già prima, sbagliata, di considerare l'omicidio, ad esempio, come reato politico perché è commesso per ragioni politiche, ma questo non ha senso, è una cosa che non esiste, il reato politico è un'altra cosa, ammesso che ci siano dei reati tipicamente politici nel nostro ordinamento penale, e qualche piccolo esempio si può fare, ma sono cose di scarsissima importanza. Certo. L'omicidio è un omicidio, può esserci, ripeto, in certi casi particolari l'attenuante per il contesto, un momento storico, e in qualche caso la magistratura le ha riconosciute. Per quanto riguarda poi l'atteggiamento brasiliano di diffidenza sul nostro ordinamento penale, le nostre garanzie, ma io vorrei soltanto far presente che l'Italia è il paese forse più garantista del mondo. Oggi portare a termine un processo in questo paese è una corsa ostacoli estenuante. Perché le garanzie sono talmente tante, le possibilità di impugnazione e quindi di riesame sono praticamente infinite. Beh sì, Ferdinando, insomma, il Bengodi da questo punto di vista, gli ex terroristi, insomma, non è che se la passano male in Italia, per cui Battisti perseguitato addirittura in pericolo di morte in Italia fa ridere. La ringrazio. Da Belluno, Salvatore, buonasera. Buonasera signor Cruciani e buonasera ai radioascoltatori. Dica. Io volevo intervenire a proposito della polemica tra grandi partiti e piccoli partiti per lo sbarramento nella legge elettorale. Dica. Beh, allora io trovo che ci sia un errato uso della terminologia ed è un uso errato abbastanza comico. Penso che non si tratti assolutamente di disquisire sulla democrazia o sul tipo di democrazia, invece si disquisisce sull'oligarchia e su quanto larga deve essere questa oligarchia che va a sedere in Europa. Non ho capito che significa. I grandi partiti vorrebbero che sedessero le mogli, i cugini, i fratelli e così via, i piccoli partiti, mentre i grandi si limiterebbero alle mogli forse. Non ho capito niente, mi scusi, ma bisogna chiarire meglio, chiarirsi meglio le idee prima di intervenire magari, perché insomma le mogli, l'oligarchia, va bene, ci sono questi aspetti, per carità, la candidatura delle mogli o dei parenti dei politici, che poi diventano anche loro politici, dunque... Non lo so, non ho capito niente, Salvatore. Interventi più brevi perché siamo in conclusione. Giulia da Roma. Giulia, buonasera. Buonasera, Cruciani. Relativamente al caso Battisti, mi do ovviamente le considerazioni di... Scusi un attimo, forse abbiamo fatto un... No, Giulia da Roma. Pronto? Giulio, sento. Allora, Giulio da Roma. Salve, Cruciani, buonasera. Chi sta parlando? Vabbè, andiamo a Ravenna, Giovanni. Ah, pronto? Sì, dica. Dottor Cruciani, buonasera, salve. Io volevo fare un intervento sempre sul caso Battisti, cercando di approcciarmi al tema da un angolo di prospettiva un po' diverso. Ho la fortuna di intervenire dopo che ha fatto sentire i vari telegiornali, no? Sì. E dal punto di vista del palinsesto è molto interessante il fatto che il caso Battisti sia stato trattato come secondo al TG1. Mm. Come secondo al TG2 e come primo da Canale 5. La... Vabbè, più o meno è lo stesso, Giovanni. Sì, ma io credo che i problemi che investono il paese, il mondo in generale, potrebbero sicuramente essere trattati con un po' più di attenzione rispetto a un tema che sicuramente ha a cuore parecchi italiani e in particolare i parenti delle vittime che ha generato Battisti, e devo dire, io sono uno che vorrebbe vedere a gabbio naturalmente tutti quelli che hanno commesso reati contro la persona. Mm. Ciò detto, però, si tratta di capire quanto questo tema, dal punto di vista dei palinsesti, che sono proprio quelli ancora di più di come vengono trattati i temi, che attecchiscono, diciamo, sull'immaginario collettivo della gente, e considerando soprattutto la memoria molto corta del popolo italiano, quasi virale, diciamo, la memoria corta del popolo italiano, e in più il fatto che... Non ho capito in questo caso, mi scusi Giovanni, però, perché altrimenti non capiamo bene qual è il suo intervento. Lei dice... il caso Battisti sostanzialmente viene strumentalizzato, perché abbiamo il TG5 che lo mette come primo titolo, il TG1 come secondo titolo e il TG2 come secondo titolo. Secondo lei non merita tutta questa importanza, è così? Io dico un'altra cosa. Sì. Noi sentiamo da più anni, da che, diciamo, la democrazia italiana è un attimo malata. Ma no? Secondo lei è malata? Secondo me non è per niente malata, abbia pazienza, Giovanni. Secondo lei è malata? È una prospettiva un po' diversa, la mia dalla sua. Vabbè, ma questo qua è legittimo, però Giovanni, io voglio capire, lasciamo perdere la democrazia malata. Cosa c'è di strano nel fatto che il TG5 mette Battisti come primo titolo, il TG1 come secondo, il TG2 come secondo? Non capisco, me lo spieghi. Ma lei obiettivamente ritiene che la mancata estradizione di un terrorista rosso, sì, che ha commesso dei crimini efferati 30 o 40 anni fa, meriti il posto in prima pagina, considerando a quanta gente, a quanta fetta della popolazione non arriva a mangiarsi un piatto di spaghetti la sera? Allora, lasciamo perdere la strumentalizzazione del piatto di spaghetti la sera, Giovanni, che non c'entra assolutamente nulla. Io credo che non è assolutamente vero che è stato sulle prime pagine, perché non è vero, non è così. I telegiornali lo stanno trattando qua in maniera diversa a seconda delle giornate, se ci sono notizie, per cui noi stiamo facendo una campagna, ma non c'entra niente con i grandi telegiornali, diciamo così. E poi è una questione, secondo me, fondamentale, di principio, il fatto che un paese, il Brasile, dica che in Italia Battisti sarebbe perseguitato e che sostanzialmente la nostra democrazia è un po' traballante. Insomma, è un fatto importante, poi ognuno valuta e giudica, Giovanni. Allora, dottor Cruciani, mi deve scusare, ma le faccio una provocazione a questo punto. Lei faccia, prima, certo, un intervento di un precedente ascoltatore sul parallelismo con Delfo Zorzi, l'ha assolutamente cassato e censurato. No, ma non è che è censurato e cassato. Giovanni, mi scusi, va benissimo. Secondo me Delfo Zorzi, vuole che glielo dica, deve essere estradato in Italia. Cosa vuole che le dica di più di questo? Dopodiché Delfo Zorzi è cittadino giapponese, ci sono un sacco di impedimenti, di cose, e comunque non c'è una condanna definitiva. Cosa c'entra col caso Battisti? Lo sappiamo tutti come è diventato cittadino giapponese miliardario. Cioè, e ho capito, ma cosa vuole che le dica? Come ha avuto... i flussi finanziari che sono partiti dall'Italia verso il Giappone per dargli la provvista per poter diventare. Bene, indaghiamo su questo. Dov'è il punto? Qual è il contrasto con lo spazio che viene dato alla vicenda Battisti? Me lo spieghi? Semplicemente il fatto che abbiamo a questo momento al potere, al governo, sì, una serie di soggetti, no, sì, che all'epoca, sì, dirigevano un partito che perché si è semplicemente fatto una rapida menzione con l'acqua fiuggi, si dimentica. Guardi, Giovanni, mi scusi un attimo, Giovanni, sull'atteggiamento strumentale di alcuni ministri dell'Alleanza Nazionale ci siamo dilungati anche noi. Il Presidente del Consiglio su questa vicenda non ha ancora detto una parola, secondo me è gravissimo, per cui non credo che voglia approfittare il governo del fatto che c'è un terrorista rosso per fare propaganda. Non è così, anzi secondo me, ripeto, è grave il fatto che il Presidente del Consiglio non si sia pronunciato. Altre cose non le capisco. La ringrazio naturalmente. Tina, provincia di Milano, e Walter da Modena. Purtroppo, essendomi dilungato mi ha fatto piacere naturalmente con l'ascoltatore che ci ha chiamato da Ravenna, dobbiamo chiudere per questa sera. Dunque ci sentiamo, se volete, domani 18:30.